zero sonno. Io mi raggi si dà un modo buco, hai capito sotto la pelle. Io non ho sentito nessuno sottrare con la polizia accesa, ho detto, non entra nessuno. E io acceso adesso. Mimi, capri 2 c'è che sta parlando. Capri 2, avanti! E Santiago 8, sì. Santiago, no, cosa sto dicendo? Santiago, sì, sì. Ma ieri tu mi sentivi dalla macchina? Invece ne regali qualcuno a Natalino, omologato, che ha bisogno di un apparecchio omologato. Ne hai tanti, regalatene uno a Natalino, mica in frequenza, c'è anche Natalino, vai. Ma sta lì che ti avevo lanciato capito. Ma non lo sento, oggi non lo sento. Magari sto facendo più basso. Ieri lo sentivo chiaro chiaro, oggi non lo intendo. Sento che sta parlando ma è incomprensibile. Diglielo. Ehi, magari si sente, ma si asciuga. Natali ha detto che non mi sente oggi perché c'è questo apparecchio basso basso. Cazzo, uscivi così bene con quel gimbal, fuori un gimbal della Sabili che si lì, i sciapparati di minnata. Lui, l'età è l'età. Avanti Natali, è vinciato, non si ricorda le cose. Vabbè, comunque attacca l'apparecchio che ti sente anche Natali, se no devi parlare solo con me. Sai che? Ciao Gianni. Ciao carissimo, ben sentito, buonasera. Ciao anche Natalino, ciao anche a Campi 2. Anche oggi, anch'io l'ascolto appena appena. Ieri invece arrivava bene con il Summer Camp, mi sembra che ieri avesse il Summer Camp, arrivava benissimo. Il 4.40 devo mettere. Ma ieri stai usando, buonasera, ieri stai usando un altro apparato, un Summer Camp se non sbaglio. Ma non ti sentono tutti in campo, il fatto è quello. Io ci prendo il gusto, la vedete accesa, ma le vita acceso, dai, non stacchi e ci metti là, così ti sentiamo bene. Io già ti sento, io problemi non ne ho, perché ti sento, anche se è basso, Santiago 4, sì. Ma se ieri in macchina mi arrivavi Santiago 8, fatti un blocco. E qua c'è Santiago 4 con questa parica. Cosa? Dov'è quel negozio di cinesi che mi stavi dicendo per prendere il giubbottino a Kurt? Te l'ho detto, Bricco, quello Bricco, quello come si chiama? Bricocina? Bricocina, quello che c'è nelle portatore. Ok, ho capito. Cosa mi intendi? Andare a telestare e va tranquillo, vai. Anda lei, a fra, ripetiti, dai, c'è anche la tazza. Ehi, cappa, salutiamo anche a Capri 2. Quindi ieri era in macchina, così è. Ecco perché arrivava, ieri ne eravamo a Santiago 5 o 6, se non sbaglio. Mai sentito così bene. Ma era sempre nella stessa zona della casa sua? O un'altra zona più alta? No, ero io in macchina, lui era sempre a casa. Io gli ho chiesto se mi sentivo dalla macchina, a me mi arrivava a Santiago 8 in macchina, a me. In macchina mia. Ah, ho capito, ma ieri era forte anche qua. E lui invece era sempre a casa sua, quindi è il Summer Camp che spara meglio. Allora lui ha dei residuati medici che ogni tanto ne tira fuori uno, ne ha una giarata. Ma non ce n'è uno che vada bene, o come il Kenwood, o come l'altro che usa, che esce forte. Ce ne sono due che esce forte, che esce bene, e usa sempre questi qua per farli girare, per non rovinarsi. Alcuni si sono seccati anche i fili del microfono, insomma. È amante di vecchi apparati, dai. Infatti lui si chiama Capri 2, il Capri 2 era un apparato di quelli lì. No, ma ieri era meglio del Kenwood. Ma neanche a paragone, sia come segnale che come radio. Qua arrivava molto bene ieri. Oggi invece è ritornato il segnale di uno, la radio appena percettibile. E bene Natali, come stai? Già sto bene. Ma cosa c'ha? Parecchi omologati. Capri 2, già. E ne ha più di uno omologato, Natali. Però vabbè, 23 canali, ma cosa di Nafuti, che tanto siamo sempre qua. C'ha l'HB23, c'ha tutti quelli lì, capito? Ma di chi sono ottimi razzi? Chi sono antichi? Io mi sarei accontentato anche di un Alan 48, tanto per averlo qua. Alan 48, non costa più di tanto, se guardi su internet con 170 euro lo compri. Vabbè, ma adesso i soldi mi servono per altre cose. Mi devo fare un computer a nuovo, ma io sto giurando un case duio. Lo potevo smontare, verniciare magari e trovo il case nuovo. Devo comprare pezzi da internet per riparmi il computer perché c'ho la scheda madre e è tutta messa male. Quindi me lo assemblo a nuovo, là. Macello, sempre soldi, sempre soldi. E oggi l'assicurazione, tutta la missione, beh, cazzo via. Ma sta lì, è bello, come è fatta? A Liguria? Ehi. Quella del ponte di due punti. Ehi, sa cosa non beh, isso. Cambio. Hai pagato 40 euro in meno, così. Eia, e più sono in terza classe, non in quinta come pensavo io. Anche bugiardo è quello. Se ne ha bisogno di due computer, no, no, lei è in quarta e scende in terza. E sono sceso in terza classe. Buono, ho visto la tariffa. Sono tutti due giovani quelli che sono lì. Vabbè, uno solo ce n'era stamattina, sono andato e me l'ho passato. Chi è questo? Non l'ecco. Oh yeah. Chi è Claudio? Mamma mia. Dove viene il nome? Ma si riconosce. Cosa? Si riconosce chi sì. No, non si riconosce chi sono. Vabbè. Buonasera a tutti comunque, vai. La radio di Massimiliano. Non so, ma non è Massimiliano però. Non sei abituato a sentire io questa voce. Ah, così è. Vero, che sono un po' influenzato però già. Non lo stavo regolando a vedere se. Che era dentro l'armadio. Era a posto, non mi ricordo, la regolazione del letto. Va bene, va bene. Oh, è riconoscibile, sì, club? Ma perché non sto uscendo bene? Ho una voce completamente diversa, eh. Vabbè, la baracchino, baracchino, la voce cambia, ma non è che è normale che cambi, no? Non dico, ripeti già. Ah, vabbè. Ma perché non sta uscendo bene? Cosa c'è, qualche problema? No, no, sta uscendo bene. È che la modulazione è molto diversa. Vabbè, questo è 48 colt. Io. Vabbè, ma non sei corte tu, no, quello è una cosa diversa, questa è una pressionina. Ulla. Questo c'è l'effetto elicottero. Cabo cabo. Vabbè. Tu avrai anche l'effetto elicottero, sarà colto, io c'ho Smith & Wesson qua. Lì c'è una 44 Magnum. Vabbè. Cambio basso. Binario 45. Attenzione, binario 10, cambio. Grandi modulatori. Poi come te che fare dentro una chiesa pari, mamma mia. No dai, così sono normale. Il tuo così già va bene. Già va bene così il tuo, eh. Comunque buonasera a tutti, ciao Franco, Natalino e Gianni e poi chi c'è, anche Gianni Capidua mi pare aver sentito. Ma questo è il Midland, eh. Cos'è il Midland? Sì, questo è il mio. Ciao Fortunato Lacchi, buonasera, ben ascoltato, ascolti qua lo Sparviero dall'isola Sarda, cambio. Sì, a Aspetta, fortunato, se lo chiedi che c'è un microfono, capito? Te lo regalo io per Natale un microfono buono. Dove sei? Con chi sei? E sei per sei? Cambio. Oh, capito, ti ho Florina, già 131, direzione Sassari, va bene, fortunato, va bene, vai. Il barracchino sto provando a vedere se andava ancora bene. Spostando un paio di camicie l'ho trovato dentro l'armadio, va blu. Ogni tanto ne trovo uno. Vai Gianni, vai, tanto fortunato ancora non lo sentite, vai. Ehi a Claudio, ciao fortunato, se mi senti non lo so. Dove si trova fortunato? Florina, sai, sotto le montagne. Attenzione fortunato, ascolti il doppio rumore, cambi. Ciao fortunato, ti ascolto piccolo piccolo ma ti ascolto, dai. Buonasera anche a te. Scappa, scappa, dai, arrivaccio tutto a Gianfranco. Gianfranco, ascolti a fortunato. Ehi Franco, lo chiamo Gianfranco come capri due. No, non l'ascolto, l'ho sentito appena appena all'inizio quando ho parlato con Claudio, poi l'ho perso subito. Forse qualche varco. Riprendi Natali, tu lo senti? Oh, io ce l'ho antenna bassa io. Tu faccia la mia. Io non mi sento più di nulla, ho cambiato apparato, non vorrei essere accorto. Se avessi la possibilità di alzarla in alto, cazzo, c'è un palo da 12 metri e sopra in punta la sala c'è 90x5, cioè, che se ne sta ridendo, nuovo qua. Aiuto! Allora dobbiamo andare. A fare il trapianto l'antenna. Sì, gliela faccio della ragione, Natalino ha trapianto l'antenna, non ce n'è problema. Cavagava, va bene, va bene. Giacomo, l'arco di vento, c'era qualcuno? Ho detto che ho cambiato apparato e non ve ne siete manco accorti. Io non ne ho videochiamata. Videochiamata? Per vedere l'apparato, no, non me ne sono accorto, la verità. Va bene, dalla potenza, dalla modulazione, non me ne siete accorti. Sempre brutta è la modulazione tua. Cosa? Sempre brutta la modulazione tua. Vabbè, come ce l'ho io la voce. Oh, io si mi fava male a me che sulla macchina e vai in macchina a bus. Cazzo, allora io l'avevi facciato la voce, non vedi niente. Sì, vabbè. Già va bene anche con me. Questo Natali. Quello che c'ha l'Alan 48 qua, lui, Gianni. Cazzo, lo quasi andavo, non c'è ancora visto. Quando ce l'avevo dal vecchio padrone. E questo non è l'Alan 48, cos'è? Effetto elicottero, cambio. Ah, io ho piazzo le macchine, là. Allora. Già fricchia vuole pure la macchina del tuo gruppo. No, lascia perdere. Ora l'ho trovato adesso dentro l'armadio, figurati tu, non sapevo manco di averlo. No, ma qua ci andiamo bene, dai. Questo c'è bene davvero, questo c'è picchi di. Sono a 2 watt e picchi di 30. Bulla. 2 watt e picchi di 30, questo funziona bene. Cambio. Solo che qua io quello non lo posso usare, se no mi arrestano prima di subito. Cazzo, siamo perché l'altro giorno c'avevi quello di Massimiliano, quello come si chiama, quelle... vabbè, non me lo ricordo come si chiama. Vabbè, comunque c'avevi là. Quello di Massimiliano è superstato. No, questo è un anacquanto. Come si chiama quello che c'ha tanti canali, Al, dell'Alan? 2001, così è? L'8001. Ah, 8001, Io mi volevo ubriachissimo, però si mi hanno parlato male volta a genere. Boh, non l'ho mai avuto io. Sempre l'Alan 48, per me è sempre l'Alan 48. Adesso ce l'ho una vita, capito? Tali, chiedilo a Gigi che ce l'ha, lo 2001 l'ho avuto, non so se ce l'ha ancora. Quello mi piaceva, che era omologato quell'apparecchio lì. E uno gliel'avevo dato io a Paradiso, però era normale, l'aveva fatto modificare. Questo è sempre quello là, dai. La voce però è un po' così perché sono influenzato. Poi c'ho Mickey Game, basso, ulla. Ecco, non so se la posizione era questa, non la ricordo più, Vabbè, riprendi Gianni, fai girare. Gianni Capri 2, riprendi, fai girare. Cambio, passo, compro e vendo. 155 su eBay costa, però io voglio l'XT, quello omologato, se avete lo trovo. Ma Gianni Capri 2 non c'è più. È andata a comprare la lampadina. Si è fulminata la lampadina. Ogni tanto si fu immaneggiare che cosa? La lì si fu immaneggiare la città, vai vedere. Va bene, dai, riprendi Gianni doppio allora, vai. Un attimino che mi assento, arrivo subito. Ehi, riprendo, dai, dai. Andava bene. Che dire? Io adesso mi ho messo in moto questo qua perché era un po' fermo. Ma non so come esce di radio, se è forte, se passa, non lo so. Franco. No, sempre buona, a me arrivi sempre la bomba qua. Questo è il Magnum 980, e qua non ce l'ha nessuno. C'erano tutti le serope, ma il 980 non ce l'ha nessuno. No, no, fortissimo, fortissimo. Segnale, sì, qua già fondo scala, fino a 9+30. Questo qui è una bella parata, dai. È un bel apparato, c'è tanti canali, c'è. È americano, solo che il problema è che questi apparati qua, se si guastano, non c'è nessuno che li ripara. I pezzi non te li mandano dalla medica, capito? È un casino. Ma ormai non c'è più nessuno qua. Perché ormai era ferma come frequenza, dai. No, chi vi ripara c'è, però non si trovano i pezzi, i pezzi sono particolari, non sono come questi altri apparati. Se poi vi si rompe il frequenzimetro non te lo mandano dall'America, sono gelosi, capito? Devo ripararli da loro, mandarli in America, eccetera, eccetera. Questo era un paio d'anni che non funzionava il frequenzimetro, invece quest'anno l'ho acceso e così fatalmente si ha ripreso a funzionare. Che apparato? Questo che sto usando adesso. Che Sharifia? È un Super Galaxy. Ah, un Super Galaxy, ma di quelli veicolari. K. Abbiamo un po', come si dice, scacciavitato, l'altro giorno abbiamo tirato una ventina di watt in AM e una trentina in banda laterale, è stato lì, no? Che cosa fa? Questo è un Galaxy. E me cosa fa? Abbiamo un po' aumentato la potenza, no? Dai 12 che aveva, 13 li abbiamo portato a 20 e 30 in banda laterale. Vabbè, funziona bene. E lo sto sempre usando così, adesso già più di 2 mesi così. E non lo facciamo bene. Penso che vada bene, dai. Sono quasi, cioè si può dire che sono a manetta. Ma l'hai fatto tu o te l'hanno fatto? No, no, l'ho fatto io insieme, come si chiama? Alice mi dava le coordinate, cosa fare, e mi ascoltava e l'abbiamo aumentato così in diretta. Va bene, va. Importante avete toccato comunque ci sarebbe da regolare l'FM, ma lì non so dove mettere le mani. No, non ne ho mai fatto paracchino, non so. Non lo saccio. Avanti, Gianni, riprendi. Io per quello non metto comai. L'unica cosa che ho fatto, ma guarda, l'ho fatto proprio così, malvolentieri, è il Cobra che aveva poca radio, ne ho aumentato un po' la radio, ma me l'hanno detto loro come fare, non mi ricordo se era Marco che me l'ha detto come fare, e piano piano ci sono andato, si raccoglie la radio, era bella forte, e l'ho lasciato così com'era. Sì, a me le dite me l'aveva data, mi sembra Massimiliano, un giorno che stavamo parlando con Claudio, avevo preso un po' di appunti e poi piano piano qualcosa l'ho modificata, ma senza esagerare, ripeto. Perché poi sono spurie lì, se tu aumenti i watt, sono tutte spurie che ti dà e disturbi, sono cose, non è che siano i watt aumentati, ti aumenta tutto. Lì non so. Tra l'altro non si sta lamentando nessuno, solo si attacca un po', mio figlio si lamenta che vanno, che entrano nelle casse del computer. Te l'ho detto, sono spuri più che da quando fai questi lavori qua. I watt si aumentano o con lineare oppure cambiandoli proprio i finali, eccetera, eccetera, lavorandoci sopra il circuito, dai. Sì, ma in genere sono stati, non dico a metà, ma quasi, dai, al massimo tre quarti della potenza che potrebbe avere l'apparato. Si tengono sempre un po' bassi, dai. Ripeti, Natalì. E per non svoltare i componenti lo fanno. Capo, ma non è il mio caso, io non faccio passaggio, poi non scalda nulla, dietro c'è il dissipatore in alluminio. Cavolo, adesso attacchiamo l'altro, il Cobra. Non è un serpente? Adesso c'ho il Cobra da attaccare. Attacca, Natalì! Ehi, ho già ripreso Gianni, cosa sopra gli è andato? Ehi, sembra averne tolta la destra. Che cazzotto, questo di lì. Cattarino di questa... non dico più me. Cercavo, sai. Ma cosa stai cercando? 8.001. Ma cosa un'enormità. Cazzo. Perché io volevo quello omologato, ma quello omologato costa di più. Io lo so, costa. Già lo so ciò che costa. No, costa poco. Con bistidinami compare un HS. Questo è omologato. Mamma mia. Sono te basso la radio. Toglielo subito. Passa la radio. Bogasiro vai. Massa è cupa. Bogasiro già, Bogasiro, attacca che deve fare prima. È un bel basso la radio, è cupa. Sì, allora non ci tieni nulla. No. Minchia, con tutto che cade arriva più basso. Di modulazione non passavi più, cavolo. Questa è forte la radio, Cazzo, proprio di modulazione lo annientavi. Questo già esce. Modulazione forte. Comunque, se lo vuole qualcuno, lo sto vendendo, è 300 euro. Lo ripacca. Con quanto esce? Guarda, io sono... di portante bianca, 2 watt, c'ho picchi quasi di 30. Nulla. 35 watt esce. Se piantino a 7, i picchi arrivano fino a 9. Sono a 2 watt di portante bianca e modulati siamo intorno ai 25, qualcosa del genere. Lo sto vendendo, se serve a qualcuno 300 sacchi, viene, se lo porta via. Una bella bestia, bella. Una bella radiolina questa, so che non fa a usarla dentro casa, capito? C'ho il palma, ascoltami che l'ho quasi tutto chiuso per non disturbare, perché è regolabile. Se non si sente la modulazione, capito? Chi è Capri? Valerio. E diciamo che era tanto non lo uso, ma sono stato assieme alla Greffa la sassaria ad averlo modificato assieme a loro tanti anni fa, quindi già va bene, già va bene. E mica sono le 7:15, perché sono delle galline mangi. Sono le 18:45, quindi sono le 7:15, vale. Dopo andiamo a mangiare tutti, ma ancora è presto. Avanti, doppio rumore, prendi. Adesso gli ho messo la condizione, come va? Già, non ti sento di radio, no. No, ma Valerio, come mi ascolti? Manco ti ascolta Valerio. Basso, basso, basso, stai uscendo già. Natalino, mi ascolti? Radio 1. Adesso radio 0. Cazzo, ma il microfono suo non ce l'ha quel cobra. Cazzo, senza microfono l'hai comprato. Attacca il microfono di tavola. Ah, ma l'ha già provato l'altra volta, boh. È un po' strana quella radio. Non esce bene di modulazione. Non lo so perché. Ma bisogna aprirla un po'. Sembra proprio un po' vattata. No, sempre bassa. Non c'è il radio già. Ma scusa un attimo, ma il microfono suo non ce l'hai di quella radio? Cosa stai usando? Il microfono suo originale? Questo è l'originale microfono. Microfono Alan 48. Aumenti. Non ho capito un cacchio. Prova a vedere. Ehi, andiamo bene adesso. Oh, non capparò un cazzo, la senza così va lì. Ogni volta che entri sei tutto disastrato. No, io sto provando quello della macchina. Gianni sta provando l'altro, però non esce il radio blu. Guarda adesso Claudio, guarda adesso se esce, che ho provato il dinamico che era chiuso. Adesso esce però in moto metallica, Franco. Sì, la radio è aumentata, non è il massimo, però almeno c'è un po' di potenza. Guarda adesso lo metto dietro, lo metto un po' lontano, guarda per vedere. Ma è sempre bassa però. È strano, perché c'è la dinamica chiusa che praticamente corrisponde all'RPG. Già, ma no, non ha niente a che fare con le altre radio che c'hai, né con Magno, ma né con l'altro. Io non ti ascolto bene le radio. Natali, tu come lo senti? Ma io lo sento normale, non è amplificata, però già è forte. Normale, lo sento. Chi c'è sotto? Manino di Sorso. Ma appena lo sento. Alla grande, lascia stare così. Ciao Vanni! Ma cazzo, così è regolata benissimo Vanni, così come la stai usando adesso. Appena sei entrato è tutto strappato, evidentemente era troppo alta, capito? Io dicevo con picchi negativi, da 3 scende a 1. Prova, va bene. Oh, mia Claudio, mi era ora. Ah, Claudio c'era poco fa perché. È uno che si spacciava per Claudio, ma non mi pare che da me. Chiami ieri, tanto ne entra uno che. Vabbè, cosa ci vuoi fare? No, preferisco così, dai. E perché io pensi che l'ho acceso così a provare, adesso lo stacco, lo smetto davvero. Era giusto così per fare una prova. Buonasera a tutti, Claudio Sparviero dalle colline di Carbonati. Un attimo il telefono. Oh, già. Parami. Ecco, con quell'apparecchio che mi stava sbatterando, ho provato che mi sbatterava un canale. Perché manda a furia quegli apparecchi lì, quando scusate si mettono in macchina in casa, ti danno problemi quegli apparecchi, secondo che specialmente il Midland, che forse è uno dei più indicati per per truccare. Quello è una scuria, capito? Questo è omologato, è un apparecchio omologato, non è niente di che, però non penso che esca male, perché non me l'hanno mai detto che ci può male. No, non è che esce male, però rispetto alla tua solita radio, è diciamo che è al 50% rispetto a quella che usi generalmente, dai. Sì, vabbè, ma io per farle girare ogni tanto lo attacco, capito? Se no poi non girano le radio, si blocca il microfono, si blocca quello, si blocca l'altro, non è che bisogna scaldarlo. Il segnale è fortissimo, la radio è, diciamo, un omologato forse non deve disturbare, quindi sicuramente la radio non può spingere, se no disturberebbe anche quella. Beh, hai una salita, la compri? Cosa? Questo omologato, questo Cobra. Dipende da quanto lui. È bello, è moderno, c'ha il frequentimetro, c'ha il canale, c'ha lo smitter digitale analogico, insomma è bellissimo, cambia colore. Ehi, ma io non volevo cominciare con un bel di canali, di quelli omologati, però che vanno in un bel di canali, ero orientato sull'8001, ma costa un botto. Perché quello non omologato costa una cavolata, quanto un Alan 48. Invece quello omologato, che poi ne hanno parlato più o male, così funziona Mario. No, questo qua è omologato, quello qua americano, però omologato. Sì, lo so. Mi devo vendere un po' d'apparecchi, io vado giù. Per non avere picchi di modulazione, ho 120 canali che vanno mandati a terra della TCE di quegli antichi. Poi c'ho, come si chiama, il President Lincoln, c'ho quello uguale a questo, però c'ha meno watt. E c'ho quei due Bao Bao, però ne devo vendere uno solo di quelli, se no dopo rimango senza io. Già, tu vedi? Via. Non sei riuscito. Vedi cosa vuol dire lasciarli fermi gli apparecchi? È quello il problema, non ho prodotto bene la portante. Non lo so. Si stava fermando per vedere se avevi picchi di modulazione, infatti non neanche si muove l'acqua, è proprio minimo indispensabile la radio. È omologata, normale che sia così, il microfono suo omologato, il microfono del Cobra è anche bello, il microfono è particolare. Ricca, rilasciate Sorso che io non lo sento bene. Ciao bambino, avanti. Lo sento, non sito già. Oh, prova, guarda, 1, 2, 3, prova, ola, non lo so, forse è qua il microfono, forse io stavo sbagliando dove parlavo, guarda a vedere se è più forte la radio, più forte, è vero? E allora parlavo dalla parte sbagliata, dai, cava, no, non è amplificato, è sempre il microfono suo, solo che io parlavo sopra, invece il buco del microfono è sotto sicuramente, dai. Starì, cosa dici tu? Eia, già andarei, Vanni. Ora la radio come la senti, meglio? Sì, ha migliorato un po', ha aumentato. E vabbè, interessante, perché sbagliavo la posizione del microfono, invece che averlo al centro ce l'ha in basso. Sì, sì. Non è, ripeto, non è fortissima, però io ti ascolto benissimo perché siamo vicinissimi, ma è qualcuno in lontananza. Invece solo a me mi sente, come si chiama, Vannino? Tu con quel apparato stai uscendo, che non riesco a sentirti molto bene di radio. Da 3 scendi a 1 di segnale quando parli. Non so se è un problema mio. Capito, ho detto già. Gianni. Natalie. Aspetta fra che è rientrata mia moglie un attimo, che c'è un QTC in corso. Scappa. Claudio, ci sei? Ho capito che... Ciao. Ci sentiamo alle prossime, ben sentito per la prima. Gianni, ci sei? Valerio. Attenzione, Valerio. Qualche superstizio qua. Cappa, stavo chiamando Valerio. Valerio, mi senti? Superstizio non me l'ha mai detto nessuno. A quanto pare sì. Avete parlato in due. L'altro mi sembrava Franco, no? Via. Ciao. Ha detto superstizio sarei tu. Buonasera a tutti, è stata una giornata lonfia ieri, oggi mezza lonfia. Buonasera a tutti, non so che ci sia. C'è Gianni, c'è Claudio, insomma già ce n'è, c'è Vanino di Sorso. Superstite dalla malattia, diciamo così, già sei vivo, già sto respirando. Sì, ho avuto un capogiro poco fa. Ero subito, mi sono alzato per andare a mangiare con il tuo cappuccino, un cappuccino in camera da pranzo, ma mi sono trovato là, ancora non è passato, per carità, tutto a me. Mangia qualcosa? No, ho già mangiato, no, non è quello, è un disturbo particolare. Troppo i malanni, bisogna grattarseli. Mi ricordo quella roba che mi hai detto l'altro giorno, Ciao Marco, almeno saluta. Ciao già, sono un poco suonato, dai. Ciao Gianni, se c'è Claudio anche, dai. Mi sa che Vanino ha chiuso. Vanino l'ho sentito, oggi l'ho sentito un po', vabbè, non lo sento mai bene bene in questa frequenza, anche perché lui ha apparati che si adattano ma non vanno bene per qua. Ma oggi particolarmente non lo sentivo molto bene. Quindi non ero l'unico. Io arrivavo qui un segnale di 3, ma quando parlava scendeva uno, come se fosse sottoalimentato, fuori frequenza un po'. Sì, si sta adatta all'apparecchio, ma non va bene per qua. Va bene per altre frequenze. Natale, e allora? Che cosa hai deciso? E che cosa ho deciso? Che bisogna mi decida a prendere la scala e scendere lì giù, fargli le fotografie e me li vendo quegli apparecchi. Tanto sono sempre Remiga. Infatti, fai bene, se ti rivedi. Per lasciarli prendere e guastarsi, ti rivedi e ricavi qualcosa e ti compri magari l'apparato che vuoi. E un omologato a me mi basta l'omologato per non avere i picchi di modulazione, finché almeno c'ho questa antenna di Vuva così. Ma lo vedi che non posso alzare nulla, di alzo poco poco guai. Questo qui è tremendo. Sì, già forte così mi. Ehi, ma sto uscendo un watt, perché se alzo poco poco guai. E qua come parlo dai picchi di modulazione si fa tanare in picco. Ma è forte lo stesso, la radio è sempre forte. Lo so che è forte, è il microfono suo normale, quello guai se altro, non ho messo il turbo, nulla, perché guai che ponga che cosa, no? Qua c'è anche un compressore microfonico, non so dove cazzo, poi si fa della voce più grossa, va, ecco, gli amma poco di una ragione. Va 50 watt, mi ripongo a 50 watt, guai. Ma te è vicino al microfono si sente che è fortissima. Lo so, infatti devo parlare lontano, mi devo pigliare il tizio di parlare lontano perché sennò è troppo forte. Beh, così già dovresti disturbare un po' meno. Parlo sempre così io. Ripeti già. Adesso ho migliorato di radio. Sì, adesso sei tu. Adesso bene o male siete tutti simili come radio. Invece prima la tua si vedeva che era più bassa rispetto alle altre. Magari si sentiva. Magari. Ma questa pizzata quando è che la organizziamo? Cazzo, lo dovevamo fare la scorsa settimana. Boh, e non se ne più parlato. Là se non si sono fatti intendi, cosa vuoi che ti dica? Era per fare qualcosa di diverso, che no, non per niente. Per andare dove c'è un po' di movimento, per andare una serata dove si canta, dove c'è karaoke. E almeno ascoltiamo la musica, se non altro. Ma la piazza di Sciuvi, tu cavolo di karaoke. Già, piazza di Giuratea, che c'è la testa di piazza Cantà. Tutti ci abbattisce, non capisco. Tantissimo. L'unico più giovanile è Gianni, mi. Lo sai. L'unico il più giovanile è Gianni, gli altri sono dei vecchi paralitici. Tu sei superstite e devi stare zitto. Cosa vuoi, bello bene? Che venga lì e ti tira una fucilata al campanello. Una fucilata al campanello. No, in effetti Gianni è sempre quello che piace la vita mondana, andare in locali dove c'è musica. Noi siamo, cioè io per l'età che ho sono... Ma poi la musica mia, che già lo sapete che vorrei piace la musica rock, metal soprattutto. Ma non andrei più ai concerti rock lo stesso, non lo so, passato ormai da Ghana. Ma anche a Tarino piaceva perché lo trasportavo, andavamo in piazza dei Segni ogni sabato notte, andavamo e ascoltavamo, c'era karaoke, ci bevevamo una cosa, poi c'era Kurmai che veniva come bevevi subito, veniva a fare l'altro. Ah no? Già piaceva pure a te Natalia, allora. A me mi è sempre piaciuto, ma perché gli altri se no non ci vengono, capito? È quello il problema. Se andiamo io e tu soli è una cosa. E poi siamo vicini vicini. Ah! Sì, te lo dici sempre, non lo fai mai. Ma oramai ti sei impegnato abbastanza. Non ti voglio fare bisticciare con la tua metà. Vedi, c'è anche quello l'intoppo, gatto, io non ci avevo pensato, pensavo sempre di essere scapolo e invece mi trovo con questa vecchia qua che mi rompe le scatole. E anche rompiscatole. Ah. Me che ti scioppoca nel sonno, mi. No, già detto mi tira qualche pugnalata. Mamma mia, poi tu sei circondato da Africa, qualche giorno ti frega la pistola. No, quella non la so usare, infatti me la metto nel cuscino, adesso la scotto. Ma se già mi chiudia che pugnala davvero, minchia. Un po' di fidesce. Metti la sicura, mi. Fa come quella americana, mi, mentre dormi ti taglia il picello. Bobby di lui era. Bobby, via. Via, quello dici che l'aveva fatta grossa, ovvero. Mamma mia, te le immagini, una che ti taglia il picello e poi lo dà, o lo butta via, che ne so, lo dà da mangiare al cane. E il tombino l'aveva buttato. Se gli hanno riattaccato. Sì, ma non mai, non penso che funzionerà più. Non lo so. Ce l'avrà solo per fare la pipì e basta. Boh, come si dice, cavoli suoi, per non dire un'altra parolaccia. Sì. Non lo so. Oh, vabbè che la scienza riguarda tante cose. Magari devo farlo anche funzionare. Chiamano la GECO meccanica, o cermini. È trauto, ci vuole. Aspetta di collegamenti. Ti metto un pisello bionico mi, con una molla dentro appena e subito si allunga. Già. Ma sai quella barzelletta di quel tipo che c'è i testicoli blu? No. Va dal dottore e gli dice, dottore, dottore, c'ho i testicoli blu. Questo lo controlla. No, no, no, questo è tumore. Come tumore? Sì, sì, tumore, bisogna tagliare. No, non è possibile. E allora preferisci morire? No, no, no, allora tagliamo, capito? Non è finita, tagliano tutto e ritorno dopo un mese. Dottore, dottore. E c'è anche il pisellino tutto blu. Fai vedere, fai vedere. No, no, no, qui è tumore. Qui bisogna tagliare. Anche quello. Sì, sì, vuoi morire? No, no, no, no. Allora tagliamo e li tagliano anche quello. Alla fine dice, gli mettono questo pezzo di pompetta. Dopo un mese questa pompetta diventa blu. Va al dottore, dottore, anche la pompetta è diventata blu. Cazzo, allora è blu jeans, ha detto. Quanti jeans erano? Non funziona, no, non rifunziona, si fa senza la pompetta, come si fa Berlusconi, di cocchi e dei addenti. E allora? Berlusconi piglia il Viagra, sa che gli fa. No, la pompetta, ciao. La pompetta. E la pompetta, ciao. Ma quella pompetta dove introduci il pene e praticamente te lo dilata. Sì, ma come togli la pompetta si riduce di nuovo. Ce l'ha fatto l'ascella, lui muove l'ascella e pompa, capito? E lui sale su. E cosa serve? Cazzo di è. Così lui copita e lui si alza. Ma la pressione la mette a 2 o a 2,2? Un euro davanti e 2,2 dietro, che c'è? Non è tanto bonita. 1,1, 1,8 davanti e 2,2 dietro. Ah, sì. Bisogna andare ad alzare le gomme per il pisello. Perché dietro ci vuole più pressione adesso. Beh. No, ma con questi discorsi stasera. È di pressione. Beh, come sono entrato io, cominciamo a fare cose sconce, a dire cose sconce. Per forza, te l'immagini, ci va sulla via, io non lo so, ci va sulla brutta strada questo Marco. Ogni volta che entra, escono questi discorsi così. Ci sta portando alla perdizione, Natali. E allora? Ma volevate davvero fare una picciata così e di nuovo, solo che già ne ho detto per fare qualcosa di diverso, ma alla fine facciamo sempre solo picciata, dovremmo organizzare un'altra cosa diversa, tipo andare a mignotte. Giusto per cambiare il discorso, va? Ah, io sarà bravo Marco, cazzo. Tu sei solo più scappato qua. Serve per tutto rosso perché sei vergognoso. E vabbè, io già sono scappolo, ma anche Gianni adesso è, come dire, a piede libero. Fagiano. Oh, abbiamo parlato in due, scusa, ripeti, Franco. No, già ho cliccato dopo che è finito, ho detto Fagiano, tu hai detto che era libero, va. Fagiano, perché Fagiano, cosa vuol dire? Quando è Fagiano si direbbe, dai. Fagiano, ma non è così. Ma ogni tanto è pernice. Così. Scappano. Ogni tanto è pernice, pranizzi. Ripeto, pernice, fagiano, coniglio. Ehi, come qua. Una tipa gli ho detto, quando sono andato a ballare, una tipa gli ho detto, pisigoni, eccola. Come? Balla? Balla, no, pisigoni. No, pisigoni vi lo devi di prima, uscita, non comprendi. E ti si cosa? Balla? Gloria. Proganità. Aiutata lì. Vieni con gli scapoli. Aiuto. Ma se vogliamo andare a karaoke non c'è problema, io ho le cuffie antirumore per il lavoro. Ti troviamo, Natalia. Ti ha già mandato Natalia il calendario delle baracche? A me me l'hanno mandato un mese fa, mi sembra, un paio di mesi fa. Oh, yeah, c'è mia moglie che mi vuole pugnalare. Aspetta. Va, inviando glielo sta. Marco. Sia. Mi stai inviando il calendario delle badanti? Badanti? Ma quali? Quelle moldave anziane o badanti, come dire, badanti di un altro tipo? Belle badanti, dai. Ah, adesso si chiamano badanti. Aspetta. Nel video che ti mandano c'è uscito così. Ehi, come va la bene quella bionda? Certo, queste badanti anziane vengono a Sassari, sono moldave. Ma perché tutte moldave? Non ha giù un pregio. Ehi, no, ce ne sono ucraine, rumene. Meglio le ucraine. Le rumene sono un po', dicono che sono un po' taschine, un po' furbette. Ah, e te credo. Io la vedo tutta male. Io tutto ciò che c'è a est di Trieste sono zingari. E diciamo che c'è di tutto, eh? E poi dice che sono fredde, ma non lo so, è meglio avere una bella latina, una mediterranea, mamma mia. Non lo so, queste le basi dell'est o anche del nord, non so se hanno calde come le mediterranee. Secondo me sono più fredde, non lo so, agide. È come che tu vai in Germania, la donna è calda, gli uomini sono freddi. Alla moglie mia sorella. Chi è? Claudio, tu sei? Ti do mia sorella, la moglie, che è un bel caldo, approccia i baffi. Vabbè, i baffi si tagliano, non è quello il problema. Ma lei per tagliare i baffi lei ci voglia la mette Gillette. Ma cos'è via le settole? Se no mi fa le setole già c'è l'uscia porco, il cannello. Bravo. Allora, ma che baracchino hai, Claudio? Allora, quanto? Omologato? Sì, omologato. Omologato Colt. Va bene, ma voi non vi siete accorti di niente, il cazzo sta diluviando fuori. Raffiche di vento e pioggia a tutto andare. Sì, lo sappiamo, non posso mica la grugana che ha detto di più. No, vento forte, cazzo, deve essere qualche tromba d'aria. Guarda, io c'ho l'alimentatore che mi sta arrondando, non ho detto niente. Dice che lo buttiamo a queste. Non lo so, no, vento forte però. Mi stavo preparando per portare il cane, invece abbiamo detto. No, qua sta piovigginando appena, c'è un po' di vento per adesso. Sì, no, qua no, non c'è vento, qua sta diluviando a dirotto. Oh. Arrivato che su WhatsApp quello che ti ho mandato. Ho sentito BB, aspetta che guarda. Ascolta il mio messaggio. Sì, yeah. Ma Cocondo è andata lì non pure. Franco, riprendi. Ehi, stavo andando a prendere il telefono che ce l'avevo in carica, sto accendo. Oh, yeah. Ancora più bello sta cazzo, devo portare giù al taglio. Io stamattina quando sono tornato alle 2 ho fatto il tempo a portarlo giù. Cazzo, avevo dovuto fare una corsa per tornare a casa perché stavo già... E se così così va il fuso, tutto grande. No, qui ancora sta piovigginando, non molto, però se esce ci vuole qualcosa. Ma era grande stamattina verso le due e mezza, Ma le 2 del mattino? No, all'ora del pomeriggio, alle 2 del pomeriggio. Ah, beh, sempre aggiornamento, ogni volta che accendo ci sono aggiornamenti sul telefono. Aio, dai, tutti quanti guardano le palate. No, mi si è bloccata l'aggiornamento di Gmail, adesso no, non me lo prende più, non me lo fa né aggiornare, mi dà questo codice 938. Oh, via, sei computer, sta diventando male. No, il cellulare. Ah, il cellulare. A me gli aggiornamenti me li fa da solo, quasi tutti me li fa su, in automatico. Qualcuno lo faccio io, ma è difficile. No, io li ho messi tutti i manuali perché molti non mi interessa aggiornarli, capito? Quindi quando mi arriva il messaggio scelgo io se aggiornarlo o no. No, tu me lo apri subito già, no, non c'è problema. Shock. E io sono quelle baranti. Ma la scelta è quella che va bene. Visto che va in pensione adesso. Sì, una delle prime va anche bene, in settimana, vabbè. Uscimo a Puglio, ne ha tanto vedrò. Scioccato, quanto sta piovendo, ma roba da avanti, ma dimmi due. Raffiche di vento ci sono, asciuga. capire quanto va caro caro, però se faccio bisogno di affetto. A faida mi, chiama le badanti mi. Quelle sono badanti, quelle devono badare, capito? Che tutto funzioni bene. Devono badare, sì, non lo so qui. Allora, tu yes, mal di nuovo c'è ancora, mamma mia, mi basta più che il freddo. Appena saccarrato. E mi è qua, nel porto del cane, sta diluviando. C'è un vento, Gianni, allucinante. Allucinato però. E vedi? Ma che cara deve essere? Mamma mia tu. Mamma mia, ma tu volte vai sì. Ma che ore sono? Le 8? Le 7.25 sono. Ti aspetta di portarlo quando magari cessa. È che te sono un po' così, quando piove già lo sai, se ne porta male sempre a casa, fanno le pisciattine dove ce ne asciutto sui muri e cose, ma nell'erba non ci va. No, nell'erba. Tu si sbaglia tutto, un casino. È uscito anche mezzogiorno e mezzo oggi, stamattina, no, poi mezzogiorno e mezzo. Però lo portare a fare la pipì, almeno lo portare. Che rottura, guarda. Usci, ne prendi fra. Come fai se non smette? Cosa fa? Se non dovesse smettere, come fai col cane? Invece un po' piccato, sono le aiuole. Una raffica di verdura allucinante da greccare come va dato di vento tra un po' arriverà anche qua allora mica forte mi qua come forte aspetta guardo il meteo voglio cosa dice allora avevo messo neve veramente zona di Sassari io uso quella zona lì dai 400 a 600 metri. No, stamattina l'ha messa solo di energia, tu dai. Ma in questi giorni l'ha messa dai 400 ai 600 metri, zona di Sassari di tutti. Stamattina verso le 2:30, vabbè 2:20 siamo stati quando sono rientrato, ho preso subito a casa e sono portato giù. E era grani, non era proprio grandine, era neve a grani, perché era ghiacciata. Sì. Ma il vento lo dà in rotazione antioraria. Praticamente arriva dalla Francia, gira e ci ritorna da Cagliari praticamente. Greccare, io c'ho il riferimento qua agli alberi, ce l'ho in fianco a greccare, davanti c'è il maestrale, dall'altra parte del beccio. Questo greccare è pieno. È anche forte. Ma maestrale come la Maddalena non ne ho mai visto. Quando ero al Mar Infermo che stavo facendo, vabbè, quei giorni che ho fatto di soldato, sono uscito una volta e il vento, Claudio, ti trasportava a Mecca, tu giravi l'angolo e non riuscivi ad andare a fare. A me lo di la Maddalena, ma già fatto 24 mesi alla Maddalena, a me lo siete. Ci ho messo la croce io sono dal 1981, sì, sono arrivato nel 79, ho fatto 80 e 81, ok, e non ci ho mai più messo piede dal 1981 che io non vado alla Maddalena. Perché? Okay. Io già ci sono tornato, poi sono andato a Cappalao con la famiglia e così. C'è un vento particolare, cazzo tira un vento fortissimo, cazzo. Io ho un vento così non andavo, ma se ti fermavo andavo in l'angolo per girare, cazzo non ce la facevo. Io andavo ogni settimana alla Maddalena, c'ho anche dormito e ci abitava mia zia lì, la cugina di babbo. E anch'io ci ho dormito, 24 mesi voglio dormire. No, non mi piace, è un posto schifoso, Gianni. È un posto schifoso, non mi è mai piaciuto, capito? Non sono più andato. Assolutamente. No, Pucci, Santa Teresa, sì, però la Maddalena, mamma mia, non vorrei. E il vento solo c'è. Il vento è freddo, è d'inverno. Pucci. E vabbè. Ma tu spero che mi spetti l'antenna perché la base entra poco nel tubo. Non ho rinforzato, diciamo, la base della canna. Però la devi rinforzare, quella è la prima cosa che dovevi fare, capito? Perché avanti, Becchi. Sì, ha messo lei per questi idioti, infatti. E poi la lampadina è cambiata. Guarda, ci ha fatti. Quanto è stai, ha tirato il raffreddore così bagnato. Vai, Giappa, ti riportate a tu. Sì, sì, sì. Franco, Franco mi chiamo. Sì, ti ascolto meglio adesso, ben sentito. Con questo sì. Ma ieri eri più forte però, eh? Ieri avevi il son marcando così. No, ma ieri anche il segnale era più forte. Adesso non so se era qualcos'altro. Ieri mi arrivava 8 in macchina. Prova a attaccarlo, mi. Quindi ti viene male provarlo. Lui viene, deve attaccare a uno. Beh, cosa ci vuole attaccarlo uno e attaccare un altro, boh? Oh Gianni, ma quanti mesi ha questo calendario? È prolungato. 90 mesi, pluriennale. Non finì più, non ce l'ho fatta a guardarlo tutto. Se ci guardo il vento, va bene. E io vado a portare il cane, dai. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Ci sono i concubini. Ma ancora più vento, sacro. Sto vento e raffiche di vento forte ci sono. Lo vedi. Non è manco gara di farà, ma io ho già vado o sotto lì, sotto il porticato che c'è, dove ci sono i negozi, oppure vado sotto la parte. E io invece che va, quello che posso portare a passeggio, rottura di balle qua, dai ci sentiamo dopo ragazzi. Capa. Sto pensando se nevica. E se nevica, già vi leggo. A me la matta un po' di mosche. Io già ho le catene della neve, mai usate. Io ho le catene con l'unghetto. E se nevica ce ne andiamo a piedi, me. A me ne servono 4. Io non volevo entrare, tu fra. Ma le catene ci voglio, quindi ci voglio 4 catene. Perché non c'è la trazione? Sì, sì, ma se c'è molta neve ci voglio le catene anche nel fuoristrada, Ma così è. Va bene, dai, vado e torno, la matto e torno, ci sentiamo dopo. Ma perché il kit di catene per macchina, solo 2 ne ha, solo per la trazione, così è? Sì, viene, sono 2. Io la mia va anche a 2 ruote motrici, se voglio ho solo la trazione posteriore, però è sempre meglio con 4, dai, sei ancora più sicuro. Ehi, forse gira anche nella macchina normale, non lo so se vale la pena, boh. No, macchina normale solo nella trazione si mette. Ehi, no, peraltro non le so usare nemmeno, non le ho mai usate, nemmeno per prova, non le ho mai tolte dalla confezione. Perché poi, caspita, quando c'è la neve è un casino metterle mi. Lo so, meglio sempre esercitarsi. E infatti volevo andare tipo a Piazza Resegna a provare a piazzarle, proprio per imparare a metterle. E poi ci sono tanti modelli, Natalino. Oi. A me riposo su WhatsApp, ma... Ehi, ma mi ha mandato 1000 messaggi assieme, aspetta, 3. Ah, ecco. Uno è il monitor PMR, l'altra è la monitor nostra. Aspetta, 446081 è il canale PMR dove si trovano tutte le persone, soprattutto del 23, capito già? La solita. Ah, ho capito. Quello ti dà canale 7? Eia, no già, gli ho messo la buccia, prendono le coperture, i vari colori, anche mimetica per il Baofeng, e gliel'ho messa gialla, così è bello visibile e non me lo perdo in casa. Poi mi è arrivata anche mimetica, cioè verde scuro e nero. Copiato? Oh. Con ci siamo. Che scatole, speriamo domani di poter guidare, uscire. Ma io il problema l'ho risolto, dai. Ma di cosa? Della antenna fissata? No, magari no. Quella lì devo di nuovo smontare e mettergli sulla base, diciamo, della canna il rinforzo, in modo che, diciamo, almeno per 1,5 metri sia rinforzata la base, dai. Lì che si potrebbe spezzare. Un rotto di combo, rovinò. No, è troppo piccolo, è grande, ci vuole qualcosa almeno da 3 cm di diametro. No, va bene, il manico dell'ombrellone, quello in legno, l'ho già procurato, lo devo solo leggermente, assottigliare. Poi vuole in legno, non deve deve disturbare niente. E quello c'è il negozio di ricordo. Ma no, a parte che è un bel delicato, e poi è sottile, quanti, sarà un centimetro e mezzo, due al massimo. E poi l'ombrellone. Sì, l'ombrellone è vecchio, l'ho trovato in campagna. L'ho già mezzo raspato, ma ancora non passa. Bisogna passargli ancora un po' di raspa. Avanti. Capri, ci sei? Ti sei asciugato? Sì. È un casino, Col vento ti arriva acqua da tutte le parti. Sì, io lo credo. Sì, sono molto basso, molto basso. E poi io verso la parte tua sono coperto perché l'antenna rimane dietro il palazzo, capito? Anche Gianni col cane è andato. Sono un cane da caccia. Anche lui, cioè, il mio socio c'ha un cane corso, nero con la stella bianca, un maschio c'ha. Maschi tutti e due? Maschi tutti e due? Una bella razza. E quindi sono cuccioloni, no, il nostro ci avrà 5-6 anni, forse anche di più. Però è un tranquillone, un bravaccio, Marco, ci sei? Ehi, va. Mi sto sconciando dopo aver mangiato, dai. Mangiato troppo. Poi quel minestrone, caspita. Non dico di mettere un po' di pepe, ma era un minestrone alla diavola, quello che ha fatto mamma. Dio Maria quanto era piccante. Allora, guardate la temperatura dove sono io, sono 8 gradi fuori in strada, tendente ai 7, sì, c'è freddo. Qui da Claudio saranno molto meno perché lui è molto più in alto. Ma di notte scendono? Sì, di notte scendono molto di più, ancora di più. Poi dove è Claudio, ciu. Stamattina c'erano, ieri mattina a 5 gradi, dove lavoro io. Stamattina c'è un po' di umidità, infatti a te lo rimetto il giubbotto, quello si prende subito i malati, si riprende la cispa subito negli occhi, sta bruttisce, toia, si prende subito i malati, ce lo copri bene. Anche loro si raffredda, no? E poi con le zampe nude immagina, era un sacco di noi che avevamo appidito di mezzo all'anno. In occhi vivo un husky, un Siberian husky. Un Terranova. Quei Terranova sono mini, ma quanto sbavano. Io ne avevo uno a fianco un giorno che c'era mia figlia che cantava, siamo andati a vederla in un paese. C'era questo col Terranova, faceva l'asciugamano, stava sempre asciugandoli la barba. Io sono Bavosi, al soccorso sardo ne avevamo due, che erano bagnini quei due cani. Cosa facevano? La scia di schiuma nell'acqua? Cazzo marusi so! Cazzo mi brincava in alto, c'è mia macchina di guida, cazzo si crepo! Guardati WhatsApp ogni tanto! Sì, sono molto bavosi, sono bellissimi, ma poi li scendono gli uomini, li scendono libera la doppia palla. Ma tuo? E quanto c'è speso a volta? Davvero? Io! Sì, ma Terranova ancora di più già. Terranova ancora di più. Quello lì se lo tieni in casa ti fa la casa aperta, non fa tenere in casa quel cane, ma fa fare buonzitta. È perché guarda quanto ho sbavato io sul calendario poco fa. Buonasera, lascia troppo di spazio, sono letto di prepotenza. E vai, io ti calmento. Tu vuoi parlare con un muro? Dai, parla! Parla con un muro! Ho appiccicata al campanello, hai capito bello bene? E così non senti più a nessuno. Ciao Lu, bello quel video del bambino cinese, Caspita, manco ci vede in terra. Ma chi è Luca? Ehi, ciao Luca. Gianni, io ho giocato. Allora, fai tu. E mi ha fatto tutto, dai. È piovendo, sta? Io, sempre piovendo, sta. Ma c'è un freddo, minchia. Sì, già mi copro bene. Quello non è un problema. Con cappuccio, cuffietta e via. Sembro un maldito quando esco. E anch'io l'ho coperto così. C'era anche un scaldacollo lì. Attento, Luca, cuomane. Scusate un attimino che sono arrivato adesso, sto dando più da un telefono, lo devo consegnare. Ehi, dai, va bene. Andale, ciao qui. A andare. E vabbè, tu te l'hai fatto. Vabbè, francamente. E mi pare che mi alzo e vado mi subito prima che piova di lì. E quindi già l'hai dovuto fare tre volte, anche a mio collega, e addirittura l'ho dovuto operare anche ai testicoli, perché non gli era sceso un testicolo, l'ho dovuto operarlo anche lì. Ma sono più figlio di Ottavio, e tu so. Gianni, ma di, ma con come non è quel cane? Io guarda Gianni, quando c'ero il cane sta cenando insieme a noi, non c'è problema. Il cane cena, quando mangio io mangio a lui, perché mi faccio da mangiare, a lui insieme. Come ti la femmina mangia per mangiare? Capri 2, ma con come è quel cane? Ho detto, se tuo cane, o il cane che ci avete, con come sei di razza mi. Io gli do due pugni di sagatura prima a mangiare, e poi gli do le crocchette. Sì, quello che c'ha Gianni Capri 2 c'ha l'autogrill. Allora quello che è Natalia è cuocomane. No, si dice il pettigrillo o il pizzigrillo. Il beautiful si dice. Questo è cinghiale. Come maiali. Cinghiali pure. No, io li ho visti e sono molto belli quei cani che c'ha Gianni Capri 2. Molto belli. Mi piace vedere che sono di razza già, no? Non ti preoccupare. Sono, mi sembra un po' cuocomani, comunque gli assomigliano. Sì, vabbè. Io comunque voi il beautiful non lo conoscete, vero Luca? Ehi, un husky. Beautiful, invece che pitbull ha detto beautiful un amico. Il mio incrocio tra Viale Umberto e Viale Dante. Occhio, c'è Filippo che vi sta ascoltando, ha detto video, Filippo, gli hai detto al nonno, diglielo, chi è questo? Cuocomani. Chi è? Cuocomani. Filippo, avete detto che siete tutti cuocomani. Claudio, il cane corso se è di razza è bellissimo. Io qua ne ho visto uno che avrà avuto 2 mesi, che abita vicino a casa, aveva 2 zampe enormi, grosse. Lui ha detto che si è girato tanti allenamenti prima di prenderlo, e quello più bello l'ha trovato a Cagliari. L'ha preso a Cagliari e è bellissimo, va, quello che c'è questo vicino a casa è bellissimo, c'ha già da piccolino aveva 2 zampe enormi, un capo che non finiva più, toccate è grande adesso, figurati quanto è grande. Cosa ti stavo dicendo? Ma che i cani corsi non sono masiti, occhio che sono, c'è quel mio collega che ha fatto il recinto, gli ha messo la rete alta che te riescono a brincare, pure la rete, fatto un conto, sono andati in una campagna e hanno morsicato questo cane, andato il padrone a vedere se erano i suoi che l'avevano morsicato, dice che l'hanno messo distrutto cazzo, questo cane. C'ha 2 cani corsi e un pastore austriaco. Ma il pastore austriaco ha detto che è più bravo, cazzo, ma i cani corsi, sia la femmina che il maschio, dice che sono mari, che saltano, certi muri alti, allucinanti. Guarda, ne aveva uno mio cognato, praticamente è il fratello di quello che c'è mio suocero. Ha saltato un muro di 2 metri, era con la catena, però quindi gli è andata male, è rimasto appeso il bambino ed è morto. Invece si è salvato, praticamente è caduto da un muro, però io ce l'avevo, ero seduto sul muretto e giù c'era il vuoto, capito? Però sentito parlando con un amico quando era piccolo, è salito sul muretto, ha messo male la zappa, ha messo una zappa in falla, è caduto giù e praticamente meno male avevo la pettorina, se no l'avrei strozzato, avevo la pettorina e l'ho tenuto per la pettorina, è sceso il mio amico giù, l'ha preso da sotto, io gliel'ho abbassato piano piano, l'ha chiappato lui, se no guarda, sarebbe stato già poveraccio. È successo di notte, quindi nessuno se ne è accorto, capito? Peccato, infatti era pezzi, un paio di mesi era pezzi. Marco. Marco. Scusate. Vai. No, io chiudo che ho preso l'appuntamento per andare in pizzeria, se no poi non me la fa la pizza. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Ciao. No, la mia è fresca, dai. Io la mangio leggera, margherita piccante. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Lu. Oh. Comunque per i cani cuocomani c'è il certo a San Camillo? Lo so, io Natalia c'ho la cuocomane, Gianni KP2, Gianni Doppio Room, Claudio, ce la con cuore. Andiamo da Beautiful. E poi c'è chi c'ha il Beautiful, chi scongela il pane col phone. Cazzo, non risalte così, non me l'avevo mai fatto. Cazzo, Lucina, guarda, un giorno vuole due. Ma poi bello che... ci ha apparecchiato di tutto di più, ci ha messo liquori, poi lui aveva la birra congelata, ma cavolo fa bella birra ghiacciata, se non i pizzi però fu che era un bel burica, l'avevo appena raccolto. Ui, mamma mia, come sto male, visto come sei sceso giù dal pesce, se ne sono attacco in doscia. Ma giù mai che tu mi mangi un M60? Là, guarda, anch'io sto facendo aerosol con, adesso mi ricordo, con la medicina. Un po' già mi sta passando, ma mal di gola me lo fa aumentare. Spero che sparisca prima la tosse e poi mal di gola. No, io non c'ho un po' di raucedine, ma scuro questi giorni avevo un bel raffreddore, capito? Quindi adesso sto passando il raffreddore e mi sta venendo... questo mal di gola, tosse, casino, fa il culo. Babu, ciao ragazzi, buon proseguimento, ciao. Ciao, ciao, Gabriele, vai fra. Buonasera a tutti, buon continuo a questo, ciao Luca e ciao a tutti da casa. Ciao Gianni. Ciao Gianni, passa e fai in fretta a me, scopriti bene, c'ho avuto gola, orecchie, sai. Mi ha detto che sia mio mandito quando vai a portare il cane col freddo. Io mi metto la cuffia Nike, qui ci metto il cappuccio del giubbotto Nike. Ciao, ciao, ciao, che bello Marco. Quello non è l'apparato è normale, ci ho messo la buccia gialla, vendono le custodie, le bucce, le per coprire, no? C'è gialla, rossa, blu e mimetica, cioè verde e nera. Bella, bella, bella, sì, bello, molto bello. Sì. Sì, guarda, per l'ufficio in guerra ci sono una quantità impressionante di accessori, impressionante. Tutto dai microfoni, le batterie, gli adattatori, tutto c'è. È bello, invece è bello, poi anche il display è molto bello, ampio, visibile, sì, molto bello. Che sì, poi mi è arrivata quella verde scuro e nera, un po' troppo scuro come verde, però verde e nera, tipo mimetico. Però questa chissà perché, salta all'occhio mio, è bella, bella evidente. No, lascia questa che è bella, è bella. Noi non le fanno custodie per il boxo, siamo capito, mi si portate in agio una marea, tutti neri, se facessero le custodie così colorate, sono più belle, capito? Ma sai cos'è? L'apparecchio Voxon è serio, non ha bisogno di gingilli, di colori, capito? Io però per cambiare, capito? Io vabbè, no, anche quello lì è bellino, molto bello, sì, mi piace. Un display così visivo è bello. Franco, riprenditela. Sì, sto cercando sul cellulare la foto di quel cane corso, ma non riesco a trovarla. Fatela mandare da Gianni KP2. Impressionante, dove c'era la padrona e il cane in piedi poggiava le zampe sulle spalle della padrona, ma era più alto della padrona, era una cosa impressionante. Ma oh, questo è il cane di mio socio, gli ho fatto delle foto ma non so se le ho cancellate o meno. No, quei gialli sono belli. Gianni, ci sei ancora? Non ho capito. Io? Questo di adesso? No, quello non è il microfono, quello te l'ho detto che cos'è. Quello è il 7009 Colt. Già, quello costa una barca di soldi. Quello costa un sacco di soldi la radio. C'ha 30 watt di modulazione, c'ha scheda Colt, poi tutto blu, capito? È molto bella come radio. Vero, anche quello ho avuto, però Colt sempre l'S9. No, questa è molto bella la radio. Questa è molto bella, capito? Va bene, avanti Marco. Eia, allora, speriamo domani di poter uscire, perché guarda, è bastato assopirmi alle 6, no? Assopito, mi sono alzato e ho fatto capogiro, perché questo capogiro viene durante il sonno, quando ti assopisci, mi roba del genere. è una cosa strana, poi sta comportando in modo strano rispetto al disturbo originale, sta cambiando un po' le abitudini. Che palle, va bene. Poi ho mangiato troppo in realtà, mi ha dato un marraggio di minestrone alla diavola, un beppe pazzo, fortissimo era, mamma mia. E già lo stomaco è disturbato dal cappuccino, in più gli metti roba piccante. Oh. Sì, però ci sta bene se il minestrone è caldo, dai. Sì, quello già scaldavo, niente da dire, tra pepe e minestrone caldo. Sì, quello sì. Io già sono bello imbacuccato, avevo il sottopantalone, che sarebbe un pantalone di pigiama, felpato. Poi maglietta, maniche corte, vabbè, poi camicia felpata. È una felpa, è giubbotto, c'ho un giubbotto in casa io, nonostante la stufa, c'ho il giubbotto in casa, faccio un freddo. Addirittura? Ega. No, vabbè, il giubbotto lo potrei togliere, ma la stufa, o spengo la stufa o tengo il giubbotto, almeno uno di due, che qua non c'è riscaldamento centralizzato, stiamo usando le stufe a gas. Bene, ma l'avevi detto, e quanti gradi ci sono più o meno? Quanti gradi? Ega. Ormai qua, sai cos'è, ho messo la stufa, però ce ne sono 17 qua in questa stanza con la stufa, credo che ce ne siano un 15 nella stanza senza stufa, aspetta che controllo. Pochini sono, lo senti il freddo a 15 gradi, anche 17. E qua ce n'è 20, c'è la finestra aperta, Luca per lui. E anche qua c'è caldo, ma se lo sa come andrà, se non ci sono 22-23 non è contenta. Ma qua c'hai, no vabbè, anche tu i termosifoni c'hai. Sì, ho tutto in alluminio, però è, come si dice, è privato, non è condominiale. Ho capito, no, no, questo è condominiale, però già lo accendono, è acceso la vetta e oggi. Non siamo tutti influenzati, stiamo un po' di radire. No, qua meno male, facciamo il congiuria. Adesso non ci ha beccato. Mio collega viaggia due volte e viaggiamo in macchina, meno male non me l'ha attaccata. Ma è iniziato Anna, poi ha preso l'aria, poi a me. Ma in l'aria siamo ancora così, Anna è passata. E anche Anna è già ripassata in fretta. A me no, però, non mi vedo che se mamma mia, non trovo in balle. Apri e riprendi. È brutta poi l'influenza. Si butta a terra. Se poi devi anche lavorare è ancora peggio. Un po' di acqua al vite mischiata col miele. Bello! Anche il sangue dal naso mi è uscito oggi, lo sai, siccome io faccio sempre gli scavi archeologici col mignolo, no? Aspita sangue. Vabbè, pure quello, insomma tutto guasto sono. Adesso ci voleva come impatto. Vabbè, vediamola con filosofia, dai. Mamma si è vaccinata, giovedì. Si è fatta il vaccino, non so quanto ci stia ad avere, a fare effetto, così se mi viene l'influenza a me almeno lei non sa la becca e mi può aiutare, dai. Non è detto che non la becchi, Dimmi fra. Non è detto che non la becchi anche col vaccino. Comunque fra hai ragione, perché il vaccino è per un ceppo di solito, ma ci sono altri ceppi che girano. Comunque mamma, diciamo che è stata sempre immune a gran parte delle influenze, per non dire tutte, perché lei aveva preso la famosa influenza, lei è del 43, quale influenza poteva essere? Asiatica, boh, o spagnola, non mi ricordo, insomma, la, diciamo, aspetta glielo chiedo, la, diciamo, resa immune dalla gran parte delle influenze, che sicuramente derivavano tutte da quella famosa influenza là. Beh, è probabile, no, poi anche se la prende, col vaccino diciamo che la prende in forma più leggera, che dovrebbe avere già un po' di anticorpi formati. No, non la ricordo questa spaziale, boh, ma che anni erano? No, non lo so. Claudio, tu te la ricordi? Ehi, già ce n'erano di belle influenze. Questa spaziale? Spaziale? Cos'è, influenza aliena? Allora, mamma ha avuto l'asiatica, non mi ricordo che anno era l'asiatica, ma qualcuno di voi se lo ricorderà, soprattutto Capri, boh. L'asiatica, e l'ha immunizzata per la gran parte delle influenze insomma moderna, infatti mamma quasi mai ce la prende influenza, anzi quasi posso dire mai. E io, Claudio, non riprende, sì, l'influenza può beccare o al naso chiuso, mal di testa, febbre, oppure può dare anche disturbi intestinali, diarrea, roba del genere, o mal di stomaco, tipo può fare anche rigettare, prende nei modi più disparati. A me l'influenza anni fa mi aveva portato, mi pare, che roba di 40 o 41 gradi. Caspita, 40 o 41 era un bemmi, con quello lucido non ero fuso, mentre mio cuginetto ha avuto lo stesso tanti anni fa un'influenza e aveva roba di 40 o 41, era uscito nelle, con gli occhi allucinati, era allucinato proprio di, era uscito nel pianerottolo in pigiama, imbambolato, con gli occhi allucinati, proprio tipo allucinazioni. L'asiatica era nel 57 e nel 60, fece circa 2 milioni di morti, mi dice qua. Era una pandemia influenzale di origine aviaria. Ah, aspetta. Comunque l'asiatica, vabbè, è stata banale rispetto alla spagnola, che aveva fatto roba di 20 milioni di morti, non mi ricordo cos'era, quanti ce n'erano stati nel mondo almeno. La spagnola era tremenda, era proprio una cosa, come si vedono quei film, virus letale. Aspetta, la spagnola nel 1918-1920 e uccise decine di milioni di persone. Figurati, mamma mia. Qui l'altra volta mi sono visto quel film Contagion, sempre roba simile a me. Mamma mia, se succede. E purtroppo o ti salvi lì o non ti salvi, mamma mia. Perché magari uno ce l'ha ma guarisce, capito, di queste influenze tremende. Invece certi proprio li prende male e se li porta via, ma meno male che ne succedono raramente. Poi sai, nel 1918 le medicine non erano come adesso, erano molto, molto, come dire, antiquati, dai. Adesso ci sono terapie migliori, medicine migliori, eccetera, vaccini migliori. Sì, però là c'era la penicillina, chirina, però vedo, curaro, certo, ma questa è medicina così. Vabbè, l'aspirina c'è sempre stata. L'aspirina, ma la penicillina quando l'hanno inventata? No, non me ne ricordo. Ma chi era? Pasteur che l'aveva inventata? No, sto facendo confusione. La penicillina, vabbè, quando ero piccolo io sentivo parlare mamma di queste, diciamo, supposte penicillina, ma però non era, non lo so. Qui mi dice Alexander Fleming. Mica non fossero supposte di mio duro, mi. Alexander Fleming. Io supposto del minchia. Alexander Fleming. Prodotto Ciba. Sì, sì. Allora io ero in di farma, perché ho lavorato anche in di farma, pochissimo tempo, forse 6-7 mesi, stavo facendo una sostituzione. E quando c'ero io, non ricordo, non c'era già più. È una pastiglia bianca. E il misulì dove lo mettete? Misuline? No, misulì. Claudio, di spiegare tu, misulì. Sì, c'è anche il misulì. C'è il misulì, capito? Sì, il misulì, la tachipirigna. Misulà. No, questo misulì, non so, c'era qualcuno che aveva detto, anziché dire ni mesulì, aveva detto il misulì. E quindi l'abbiamo istituzionalizzato, questo misulì. Ah, allora, sento male, non ci ho beccato un misulì, tanto un misulì. Va bene, poi tachipirigna. Andava. Ma di medicine ce ne sono tante capri. Adesso le cose sono cambiate perché ci sono le, come si chiamano, quelle non, volevo dire in fretta, quelle praticamente i generici, e quindi a volte tirano anche quello, quindi non è, è uguale il prodotto, però è un generico. Noi il medico ce l'avevamo in casa, Gio Salvatore era stato tanti anni medico condotto a Banari. No, io non sono mai stato medico condotto. Guardavo le condotte, però il condotto no. Medico in condotta. Allora, pare che la penicillina sia stata inventata da Fleming nel 1929, pensa. Nemmeno 100 anni mica esiste. Caspita, 1929. Però l'aveva già scoperta un italiano prima, Tiberio. Che tu manco mamma l'ha nata, mamma è del 30. Mamma è del 30. Manco mamma l'ha nata ancora. Ma Tiberio, dimmi qualcosa di più, che qua dice Fleming, uno scozzese. Ma mi ricordo che Tiberio l'aveva già scoperta anche lui, poi però sulla carta c'è scritto Fleming. Diciamo che gli ha fregato la... come si dice la... come si dice quando uno deposita il brevetto? Il brevetto. Esatto, esatto, gli ha fregato il brevetto. Così come la storia del telefono, la storia della radio, che poi era Tesla che aveva fatto gli esperimenti di trasmissione a distanza, tipo telegrafo, capito? Poi è arrivato Marconi e si è fatto bello con le invenzioni di Tesla. Non sai fra chi è quello che ha... un cinese, quello che ha scoperto l'acqua calda. Chi è? Più calda. Come? Non me l'ha detto un collega. Tu sai quel cinese che ha scoperto l'acqua calda, chi ha detto boh, mi ha detto meglio buttare più calda. Più calda. Adesso ha smesso di piovere, guarda che culo Gianni che c'è qua. Roba leggera, guardate con Tamustia, questa è cassetta, Su, vai Marco. Buona la ricotta mustia, buona. Tutti i latticini io mangio, io senza latte sarei morto. Latte e tutti i derivati, capito? Yogurt, formaggi, è una passione. Mezza berra. Ciao Capri, alla prossima. Stavo dicendo, Marco, allora, è stata affibbiata questo Alexander Fleming, però si chiamava, era italiano Vincenzo Tiberio, un medico molisano che già nel 1895 scrisse degli annali di igiene. Adesso lo cerco, su Wikipedia. Cercami Vincenzo Tiberio, un medico molisano. Ci hanno fottuto il brevetto. Eccolo qua, Vincenzo Tiberio, c'è anche la foto, vediamo. Adesso mi leggo qualcosa, dai. E da, un attimino, Oh mia, ci hanno fottuto anche quella. Vedi? Scoprì il potere che mio tattico è battericida di alcuni estratti di muffe. È come la penicillina, infatti. Anzi no, mi lo dice proprio, precorrendo di circa 35 anni la scoperta della penicillina da parte di Fleming, e quindi gli ha fregato proprio l'idea. Come Tesla, proprio con Tesla, è come la storia Meucci e Bell per il telefono. Meucci ha avuto l'idea, Bell aveva i soldi per brevettarla e così è finita, dai. Purtroppo lui mi c'ha i soldi, ma ti si frega. Sì, ma infatti spesso le invenzioni sono di squattrinati, capito? Quelli che la brevettano sono quelli che fregano le idee. Altro è Marconi, Tesla, aveva fatto il primo esperimento telegrafico, proprio radiotelegrafia, aveva mandato un impulso e dall'altra parte di non so dove aveva riprodotto l'impulso, come una specie di cosa, esperimento telegrafico. Solo che Tesla non badava i soldi, capito? Voleva fare un bel di roba, ma dei soldi non gliene fregava niente. Infatti è morto in miseria, morto povero. Hai visto ieri, hanno fatto vedere l'ex cantante di Cugini di Campagna? Cosa è successo? Praticamente adesso canta per le strade, non so se è quello biondo, amico, il biondo cotonato. Adesso vabbè, non è più così. Ma cioè, finito in miseria anche lui? Sì, come si dice, per l'arca del lunario, canta per le strade, così. Oh, caspita, o si sono mangiati tutti i soldi, Eppure dovrebbero avere sempre dei rientri da parte della SIAE, no? Dovrebbe esserci qualcuno che tutela le loro opere, dovrebbero entrare i soldi, Forse gli entra un minimo e per il resto se lo lavora in strada, Ormai è tutto piratato. No, non me lo dire a me, eh? Io dal 2000 che ho il computer che non soffro più né musica né film. Allora sì che me lo può dire Claudio, mi pirata, come ti dico io a te là, pirata. Sì, se tutti i pirati come te noi, Marco. No, o meglio, cerchiamo, so io qualche film a cui tenevo, tipo la trilogia di Matrix, l'avevo comprata proprio. Cioè le cose a cui tengo veramente le compro in modo da avere proprio il supporto perfetto, però è anche vero che grazie a Dio scaricando musica, serie TV per esempio, che quelle se vuoi comprare il cofanetto te le fanno pagare a peso d'oro, le guardi una volta poi non le guardi più. E quindi c'è il Santo Emule, prima c'era WinMX, adesso c'è il Santo Emule che serve a procacciarci tutta musica, film, serie TV. Per la musica, io sto usando adesso questo Spotify, lo conosci? Com'è? Dillo piano. Spotify, è scritto Spotify. Guarda, Spotify, adesso che me l'hai scandito, l'ho sentito, ma non ho idea di cosa sia. Io ho sempre usato WinMX all'inizio e poi Emule. Quando WinMX ha chiuso, Emule. Poi vabbè, in rari casi, proprio per film appena usciti, uso, come si chiama quello? Microtorrent. Microtorrent. No, questo è un sito dove trovi tutta la musica. Ho già messo anche la melanzana, mi ha trovato anche la melanzana. Lo passarla, vieni tu. Eia. Guarda, in questo momento mi sto guardando la fine, sono arrivato ormai all'ultima Californication con David Duchovny, non so se è presente, quello che faceva X-File. Ha fatto questa serie Californication che è divertente, poi tutta sconcia, c'è gente sempre o che tromba o che dice, che parla sempre di, no? Insomma, è divertente come serie, però un po' scabrosetta. No, non la conosco, non seguivo neanche X-File, come era? Sì, guarda, David Duchovny faceva uno dei due protagonisti di X-File, l'altra era Dana Scully, il nome vero non me lo ricordo, erano due, maschio e una femmina, però lì era un po' soggetto in quella serie, invece in questa serie è molto, molto scatenato, molto... Ma proprio certe puntate sono veramente scabrose, infatti le mandavano sempre tardi, non presto. Non lo so, dai, io vi lascio che vado a cenare. Ciao Claudio, ciao Marco. Riprendi Cla. Ehi, ciao Fra, dai, saluta mia Anna. Qui ci organizzeremo prima di Natale, andare a mangiarci un'altra cosetta assieme, dai. Ci sentiamo, buona cena, buon tutto. Quindi a te tua sorella, mi prendi invece di parlare lì. Dai, saluta anche tu a tutti. Ragazzi, quindi facciamo il ponte del sì, quindi sono libero di Marco Latta. L'altra cos'è? Ah, è San Nicola, il 6 e il 9, è l'8. Sì, vediamo, vai. Sono una cavalla con le feste. Ce le facciamo in famiglia, già ci sentiamo magari la settimana dopo, vediamo un po', ok, riprendi Marco. Eia, ciao Franco, dai, buona cena, buon tutto, sentiamo le prossime, ma altre feste in arrivo ci sono, mi, per carità, già il Natale mi sta sulle palle proprio perché non la vivo come una festa religiosa, proprio per niente. Poi sai, mamma dove si cresce, qua nipoti, bambini non abbiamo, quindi no, non si è affatto nulla a noi di Natale, capito? Avessi figli io, vabbè, mamma ha detto che sarebbe piaciuto diventare nonna, ma me lo dice adesso, me lo doveva dire 30 anni fa però. Vabbè, ma il pistolino ce l'hai anche adesso e se ti metti l'impegno ce la fai. Vabbè, ma mamma è anziana, non ne ha più voglia. Oh, magari me l'ha detto, dice, se avessi avuto nipoti che bello li avrei portati fuori col passeggino. Ehi, vabbè, me lo dovevi dire 20-30 anni fa, dai. E poi io non, ho detto, se non ho una situazione stabile, tipo lavoro, non mi sposo, non mi posso sposare, non posso mettere in famiglia se poi non ho di che camparli. Anche se qualcuno ha detto, se sapete chi sì che vivono la giornata? Ma è un diritto avere sempre diritto avere un figlio. Ho detto sì, ma come te lo campi? Oltre ai diritti ci sono anche doveri. E sai chi è che dice sempre, che parla sempre di diritti e mai di doveri? Quelli di sinistra. Io lo so. Vabbè, se le dai adesso il passeggino col bambino, ma adesso lo dimentica in Piazza d'Italia. No, vabbè, ma non mai dire mai, senza scherzi. Sì, questi di sinistra hanno sempre questa mania dei diritti, ho detto, ma dove eri mai? Ho detto, se uno, l'avevo detto non so a chi, tu non deve essere in grado di campare il figlio, non che non ha da mangiare per il figlio, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire cosa c'entra e come? Come te lo campi il figlio? A fare l'elemosina, col bambino in braccio, non esistono. E purtroppo questi di sinistra sono tutti così, capito? Quindi bussa via sia quelli di sinistra che quelli di destra, capito? Io sono per conto mio, non mi interessa né la sinistra, né Casa Pound, né niente. Ognuno parla a modo suo intanto. Secondo me i partiti sono tutti uguali, ormai non ce n'è più roba stabile da poter definire una cosa e basta. Non lo vedi, tu che sta succedendo. Se no come fai tu a Camusso sta lottando un po' per CGL, ma come fai tu a portare la pensione a 67 anni? Ma argomenti vai, ma questi poveri ragazzi quando è che vanno in pensione? No? A 67 anni, e fa 60 anni già uno è molto, quando c'ha 40 anni di lavoro alle spalle si deve ancora lavorare altri 7 anni. Ma no, Tinnandi, per carità di vergogna, invece prima 30 anni eri in pensione, 35 anni di video eri in pensione, capito? Oppure a 67 anni di età eri già in pensione con 20 anni di video. Vabbè, immagina, pigliare una miseria, capito? Invece adesso già sono cambiate le leggi. Beh, hanno interesse a farti crepare sul lavoro o subito dopo, così non ti godi la pensione. Così non pagano la pensione, a meno che vabbè, uno non abbia la moglie, allora in quel caso credo che sia reversibile. Ma se uno non ha moglie, una volta morto, andate in pace, capito? Vabbè, comunque non è questione di adesso, ma anche prima, cosa ha fatto la DC, la Democrazia Cristiana, in 40 anni, quanto c'è stato, cosa ha fatto? Ha magnato, tutti i partiti hanno magnato, anche quel Craxi, capito, il socialista, no cos'era, non mi ricordo bene cosa, manco più cos'era, tutti i magnaccioni sono sempre stati tutti i magnaccioni. E questa classe politica di adesso sono tutti figli e nipoti della classe politica di allora, dei magnaccioni di allora. I repubblicani, tutto magna magna era, come dice il mio collega, capito? Dice, era tutta una manigatta, capito? Perché lui è gallurese, è così, però devo dire che c'era molto più lavoro. Il casino è successo da mani pulite, capito? Su gattoli di pietra, si aveva fatto i vattigiuri. E poi guarda la fine che ha fatto. E lui che cos'era? Un corrotto di merda come gli altri. Prima ha incasinato la vita a tutti, con il pool di mani pulite, capito? E poi è risultato lui con le mani sporche, però. C'era più lavoro, la gente ti assumeva anche a giornate, anche in nero, si lavorava mai di più. Poi quando è uscito fuori il pool di mani pulite, capito, a capo visto pezzo di mezzo di Pietro, la gente non ha assunto più perché aveva paura. Vabbè, tutto certo bene non può andare. L'Italia è un paese così, la classe politica tedesca è stata sempre migliore, non lo so, più selezionata, più. Quando ho fatto entrare Cicciolina al Parlamento, Luxuria, sciampiste, capito, pompiste, di tutto hanno fatto entrare. Ne sono entrati cantanti e controcantanti. Oh, 1,25 sono, 1,25 vado a far fare la corrida. E poi c'è la partita, c'è Napoli Juventus oggi. No, grande partita, dove la Juve busca forte, sicuramente, a Napoli. E quindi il campionato è finito. Il campionato lo vince il Napoli. Se vince stasera il Napoli contro la Juve, il campionato lo vince il Napoli. È finita. Va bene, dai, che è pronta la cena, ti saluto, ci sentiamo domani. Con la speranza che sia bel tempo, sono maestro tutto il giorno a casa, se la biglia in cu. Ciao a tutti, anche quelli che sono in ascolto, dai. Buonanotte a tutti, riprendi Marco. Eia, va bene, ciao, buona cena, buonanotte, buon tutto. Ciao con gli ascoltoni, ciao ciao ciao a tutti, dai, a domani, tocchiamo ferro, non si sa mai. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao Marco.